Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lo confesso, non sono mai stato un gran cuor di leone, ma al tempo stesso non ho mai accettato l'idea che una paura potesse condizionare la mia vita al punto da impedirmi di fare delle cose. E oramai eravamo lì, in terra straniera, sul litorale di Budva, pronti a salire a 40 metri da terra e buttarci appesi ad una corda fino ad arrivare a pochi centimetri dal bagnasciuga. Che ci potevo fare? Ciao, Pietro Paolo Coppola, vivo ad Angri, in provincia di Salerno, sono ingegnere civile, ho 34 anni e sono celibe, ma fidanzato. In diretta dalla sede di Roma di Radio 24, questa mattina arrivando in radio ho visto un cartello elettorale magnifico, non mi ricordo neanche chi fosse, non ricordo né il nome né la parte politica, che diceva, correggimi Valerio se sbaglio, semo romani, damo se da fa, giusto? Che prima ho detto tipo demo se da fa, si dice damo se da fa, semo romani, damo se da fa. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:09 minuti, sono Matteo Caccia e questo è Voi siete qui, è un programma in cui ogni giorno raccontiamo una storia diversa. Oggi è il turno di Pietro Paolo, che ovviamente appena dici Pietro Paolo, per uno che ha un minimo di coscienza storica calcistica, viene in mente quel Pietro Paolo là, cioè Virdis, ma la sua storia parla di altro, parla di essere capaci di dire di no nella propria vita. Ecco perché dal suo racconto, che in realtà racconta di un no che lui non è in grado di dire per un episodio semplice, anche se per certi versi abbastanza terrificante, oggi abbiamo voglia di parlare di tutte quelle volte in cui avete detto un no che in qualche modo vi ha salvato la vita. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook del programma, che è sempre quello lì, è Voi siete qui Radio 24. Devo dire, il commento migliore che è arrivato oggi sul profilo del programma di Facebook è di Lorenzo, che dice: che bello questo argomento! Basta. Ascolta, Lorenzo, mi fa piacere che ti piaccia l'argomento, che peraltro non abbiamo deciso noi, l'ha deciso di fatto Pietro Paolo col suo racconto. Però, e mi fa piacere che tu scriva anche sul profilo Facebook, però magari no, dici anche qualcosa di più, tipo Lucia. Troppo pochi no ho detto per cambiare davvero la mia vita. Forse quello di non assecondare un fidanzamento combinato è stato il più importante, ma vai a sapere se ho fatto bene. Ma sì che ho fatto bene. Vabbè, Lucia scrive tutto il contrario di tutto nello stesso messaggio, però se ho letto bene, non ho assecondato un fidanzamento combinato. Esistono fidanzamenti combinati in Italia, immagino, perché Lucia è... insomma, a meno che non si firmi con un nome italiano, credo che sia di questo paese. Cristina invece: due no significativi per un impiego presso uno studio tributario 12 anni fa. Da quel no poi la mia vita è completamente cambiata, visto che ora lavoro l'argilla, cioè di mestiere lavoro l'argilla. L'altro 4 anni fa, ad un ex che mi propose di andare a convivere insieme nella casa di sua madre, con lei, la sorella e il figlio del mio ex, e dimenticarmi della mia famiglia, che allora aveva bisogno del mio aiuto. Cristina, va bene tutto, certo che ti ha cambiato la vita, ma volevo vedere se avessi detto di sì. 349-238-6666. Questa puntata poi in realtà è la parte speculare di una puntata che è andata in onda un paio di settimane fa e che aveva come protagonista di questa storia un'ascoltatrice che in quel caso si chiama Lella Costa, con la quale abbiamo inaugurato una piccola novità della stagione numero 2 di Voi siete qui, che è quella di avere ogni tanto un personaggio più o meno conosciuto di qualunque ambito, dello spettacolo, dello sport, della letteratura, della politica, ce ne sono già abbastanza che parlano di politica, che semplicemente raccontano un episodio della loro vita. Non vogliamo fare un programma di interviste, non ci interessano, in particolar modo non ci interessa la vita dei personaggi famosi, in nessun modo, ci interessa sapere un episodio della loro vita, della vita di tutti, che racconti qualcosa di loro. 349-238-6666, oggi parliamo del no che in qualche modo vi ha salvato la vita. Mi scrivono qualcosa sul calzone elettorale, ma è meglio lasciar stare, e mi scrivono perché siamo a Roma, ve lo spiego più tardi. Adesso invece raccontiamo la storia di Pietro Paolo, che ha detto, anzi non ha avuto il coraggio di dire un no semplice, e mi sa che la vita non gli è cambiata. E poi arrivò il giorno fatidico. Era dall'inizio della vacanza che con Vincenzo ed Enrico l'avevamo programmato, ma in fondo non ci credevo che l'avremmo fatto sul serio. Come una di quelle tante cose che tra amici si dice, tipo: sai, io vorrei tanto fare, e poi invece restano solo parole al vento. Un pourparler per darsi un tono con se stessi prima ancora che con gli altri. Un sognare rassicurante di poter vivere esperienze elettrizzanti, mentre intanto si è comodamente seduti sul divano di casa. O forse semplicemente non realizzavo di cosa stessimo parlando. Una di quelle cose che sei sicuro che sia una stupidaggine, una cosa semplice, un «e che ci vuole?». Ma che quando poi ti trovi a doverle fare tu in prima persona, ti rendi conto che forse non era poi così scontato come pensavi fosse. Insomma, mentre ci recavamo all'accettazione di quel bungee jumping, pensavo tra me e me «e adesso? Come me ne esco da sta situazione?». Lo confesso, io non sono mai stato un gran cuor di leone, ma al tempo stesso non ho mai accettato l'idea che una paura potesse condizionare la mia vita. E oramai eravamo lì, in terra straniera, sul litorale di Budva, pronti a salire a 40 metri da terra e buttarci appesi a una corda fino ad arrivare a pochi centimetri dal bagnasciuga. Che cosa ci potevo fare? In Montenegro siamo andati perché non avevamo una lira e volevamo un posto di mare bello che fosse vicino e poco dispendioso. Mi ci ha portato Enrico, che mi ha trascinato con la moto, ognuno con la moto sua, e Vincenzo, che poi è mio cugino, è stato il mio passeggero. Guardo i miei compagni di viaggio e in tono perentorio dico: io vado per primo. Buttarsi dopo di loro sarebbe stato per me complicatissimo. Un'altra pressione psicologica che il mio orgoglio difficilmente avrebbe retto. No, se devo farlo, devo essere il più possibile libero di mente. Mentre saliamo, cerco di pensare che lo fanno in tanti e che non succede mai niente. Appena giunto in posizione, il simpatico ragazzotto comincia a contare e gli urlo: «Oh, fermati!». Non si creda che io arrivi qui in 3 secondi e mi lanci nel vuoto. Devo concentrarmi, devo scavare dentro di me e trovare il coraggio per farlo. Non che io abbia paura che l'attrezzatura non funzioni, non sono un aspirante suicida. Sono assolutamente certo che la corda farà il suo dovere. No, no, io ho proprio paura di saltare nel vuoto. La stessa paura che mi impedisce di tuffarmi a pesce dalla barca, ad esempio. Figuriamoci da uno scoglio o da 40 metri, che equivalgono circa a un palazzo di 13 piani. Mi metto in posizione, ma mi blocco. No, non ce la posso fare, non è da me. Guardo giù e osservo Vincenzo ed Enrico che mi fissano abbracciati. Stanno condividendo con me la mia paura, che forse è anche un po' la loro. Li odio. E ora? Per un momento mi balena in testa l'idea di mollare. In fondo non devo dimostrare niente a nessuno. Dai, adesso me ne scendo. E va bene così. Poi invece guardo tutte quelle persone sconosciute distese sulla sabbia e penso a che figura ci farei. La paura era veramente pietrificante. Pensavo che non ce l'avrei mai fatta. Poi un po' la vergogna di fare una brutta figura e un po' quello spirito cameratesco con i miei amici di viaggio mi hanno aiutato a vincerla. Intanto il ragazzotto riparte col conteggio e quando scatta il 3, con la rassegnazione di un condannato all'impiccagione che si aspetta solo di vedere cadere il pavimento, mi lancio nel vuoto. In meno di un secondo mi ritrovo a sfiorare l'acqua, ma poi un miracolo mi allontana da terra, rispedendomi su, nel cielo. Sollievo, almeno fino a quando non mi rendo conto che mi sto fermando. Resto sospeso per aria giusto il tempo di realizzare che sono di nuovo ad un'altezza considerevole. Faccio ruotare nel vuoto le gambe, come Willy il coyote quando tenta di non cadere nel burrone. Ma la giostra riparte e va avanti così per altri 3 o 4 rimbalzi. Quando mi adagiano al suolo, le gambe cedono. La tensione e l'esplosione di adrenalina mi hanno letteralmente distrutto tutti i muscoli. Mi sembra di avere scaricato a mano una nave mercantile. Dopo che anche i miei amici si sono lanciati, ci tuffiamo in acqua e rivivo quei momenti in cui avevo l'abisso sotto i miei piedi. E poi mi eccito a pensare che proprio io, da solo, senza che nessuno mi spingesse, ho messo i miei piedi, dandomi il balzo necessario per superare la paura. E imparo una lezione di vita. Spesso le paure sono sciocche, ma solo dopo che le hai superate. Pietro Paolo è saltato giù dal 13° piano attaccato a un elastico e se l'è fatta sotto. E non sono così sicuro che si sia davvero divertito. Dal suo racconto si capisce che ha superato una prova. Ha vinto uno sa paura, almeno per un momento. E ne è stato felice, ma non sono sicuro che più in generale fare qualcosa di cui non si è completamente convinti sia una grande idea. Di quelli che non hanno mai un'opinione propria si dice: sì, e se ti dicono di buttarti cosa fai? Che rende abbastanza l'idea. Lui si è buttato perché l'ha scelto, però fino lassù ci è arrivato perché non ha mai veramente saputo o voluto dire di no. Che in fondo non aveva niente da dimostrare, no? E poi soffrirà pure di vertigini. C'è tutta una serie di manuali per i genitori su come dire di no ai propri figli, per insegnare loro cosa sia giusto e cosa sbagliato. Ecco, io credo che dovrebbero fare anche un manuale su come dire di no al mondo, perché a volte il mondo ti propone delle cose che non ti piacciono e tu magari le mangi lo stesso. Imparare a dire di no è un atto di forza. Può accadere a un adolescente che sta in compagnia e per non fare brutta figura si ritrova in situazioni che non ha veramente scelto, o a un marito che non voglia andare a fare shopping, tra amici, sul lavoro, perfino nell'esercito. Quando sei abituato a dire sempre di sì, che tieni buono il mondo e gli fai credere che sei sempre d'accordo anche quando non è vero, poi magari un giorno ti viene la nausea, no? E per non farsela venire, l'unica soluzione è sentire il diritto di dire di no. No, quella sigaretta non la fumo. Oppure no, quel film non voglio venire a vederlo. Dire no. Dire no, questo lavoro a queste condizioni non lo faccio. Oppure no, questa multa non la pago. Le cose a cui si dice di no definiscono il nostro carattere esattamente come quelle a cui diciamo di sì. Solo che dire di sì è più facile. E dire no ci fa trovare di fronte delle facce accigliate, sorprese e non felici. Perché fare contenti gli altri è sempre bello, ma se per farlo facciamo scontenti noi, allora non funziona. Io, a dire la verità, sono uno che dice quasi sempre sì, perché preferisco avere intorno gente che sorride. E poi anche perché sono fortunato e mi hanno sempre proposto cose piacevoli. Ma lo so che potrei dire di no, se volessi. Che poi per i no che vi hanno salvato la vita si intendono semplicemente dei no che avete detto e che in qualche modo hanno indirizzato la vostra vita, non che vi avrebbero portato alla rovina, però più o meno una cosa del genere. 349-238-6666, qualcuno che non si firma mi scrive: sto andando dal mio avvocato a dire finalmente di no. Questo suona più come un passo indietro che non come un no vero e proprio. 349-238-6666, parliamo di bungee jumping, ma parliamo soprattutto della capacità o meno di dire di no. E lo facciamo con Pietro Paolo. Pronto Pietro? O Paolo? Io. Pronto? Matteo, mi senti? Io ti sento, un po' male ma ti sento. Ciao, come stai? Sono un po' raffreddato. No, credo sia più che altro il telefono. Senti, ma scusami, come ti chiamano? Pietro Paolo o Pietro o Paolo? No, Pietro. Ah, ok, quindi posso chiamarti Pietro e basta. Sì, sì, sì, tranquillamente. Pietro, senti, tu sei della provincia di Salerno, giusto? Sì, sì. Di dove? Angri, vicino Pompei. E in questo momento sei in casa? Sono in ufficio. Che lavoro fai? Sono ingegnere civile, lavoro con mio padre, quindi insomma mi gestisco abbastanza tranquillamente il tempo libero. Scusa, ingegnere civile è ingegnere edile, giusto? Esatto, c'è un progetto case, industrie. Quindi facciamo i calcoli del cemento armato, così detto anche. Male proprio. Ma mi dispiace, sì, i calcoli del cemento armato sono la mia qualifica. Ma che poi cosa vuol dire calcoli del cemento armato? Perché io ho sempre sentito dire gli ingegneri civili, gli architetti disegnano, gli ingegneri civili fanno il calcolo del cemento armato e sono pronto chiaramente a ricevere orde di sms di insulti da tutti gli ingegneri civili. Ma cosa vuol dire? Che tipo di calcoli ci sono da fare per il cemento armato? Praticamente devi dimensionare insomma le travi, i pilastri, il tipo di acciaio che devi utilizzare per far mantenere l'edificio. Ma è vero che gli edifici hanno un'elasticità? Sì. E quelli fanno parte di quei calcoli? Sono i materiali che hanno delle capacità elastiche e anche alcuni insomma riescono anche in capo plastico a funzionare un pochino. Va bene, senti Pietro, andiamo alla storia. Andiamo sì. A quando hai fatto quel salto. Innanzitutto mi ripeti esattamente dove eravate? Eravamo in Montenegro, Budva, è una cittadina che poi è meta turistica molto dei russi, dei ricconi dell'est. E come mai voi siete finiti a Budva? L'ho detto anche prima nell'intervista, non avevamo veramente Molti soldi, un budget molto limitato. E a Budva ancora si va con poco? Quello del 2006 il racconto, cioè l'esperienza. Quindi 6 anni fa ancora era una meta veramente... Cioè, no, perché... E io ricordo ancora, esatto, l'hai citata proprio, ricordo ancora gli anni in cui si diceva: no ragazzi, vai in Croazia, bravo, con 2,50 euro mangi pesce dall'antipasto al dolce. Bravissima. E adesso, diciamo, in quegli anni, nel 2006 la Croazia era diventata cara. E quindi si era passato dal Montenegro, che era un po' più a sud. Credo che si scenda, perché adesso dicono che l'Albania è la nuova Croazia. Può essere, è ancora più a sud, quindi... Dove sei stato quest'estate, Pietro? No, quest'estate sono stato ad Ascea Marina, sempre in Precisa Lerno, nel Cilento, vicino a Palinuro. Però con la fidanzata? Con la fidanzata, la famiglia, insomma, un altro tipo di vacanza, più tranquilla, diciamo così. La famiglia tua o sua di lei? Mia. Senti, mi diverte il fatto che un ingegnere anche a 40 metri di altezza cerchi di calcolare esattamente quali sono le possibilità che l'elastico si tenda o non si tenda. Quella è la tua formazione professionale. Senti, hai detto qualche, da allora o prima, hai detto qualche no che ti ha veramente cambiato la vita, Pietro? No, non sono molto capace di dire no, questo è vero. Da quant'è che sei fidanzato? No, da pochissimo. Ah, è fresca fresca, ma tipo un anno? No, molto meno. Ma scusa, qualche mese sei già andato in vacanza con lei e con i genitori? E da un anno le sto appresso. Come, scusami? È da un anno che le stai appresso. Senti Pietro, ti ringrazio per la storia, la chiacchierata, in bocca al lupo per il tuo lavoro e per la tua vita. Grazie a te, in bocca al lupo. Grazie a te, grandissimo. Grazie ciao mille, ciao Pietro, buona giornata. È romantico e pensieroso Pietro in questa foto che ci ha mandato e che immagino sia stata scattata a Sherm, dove è stato quest'estate, non mi ricordo, dalla sua fidanzata o presunta tale. È su un muretto, alle sue spalle quello che sembra più un lago, devo dire, che non il mare, ma lui è in controluce, si vede la luce riflessa sull'acqua e Pietro Paolo in controluce. No, avverbio e sostantivo maschile. Avverbio negativo olofrastico, equivalente cioè a una frase intera, spesso rafforzato da un altro avverbio. Con valore appositivo o attributivo, indica ostilità, negatività. È una giornata, decisamente no. Etimo, latino, non. Data secolo XIII. Bene, chiunque sappia che cosa significhi olofrastico, 349-238-6666. Noi siamo completamente padroni di quello che diciamo, noi, non quello che dice Alessandra. Non so nemmeno lei se è così padrona. Olofrastico, 349-238-6666. Dire di no, dico di no, scrive Claudio da Cremona, ogni volta che qualcuno viene a cena da me e vuole comprare le mie due vespe che sono in salotto, sotto la televisione. E ancora, percepivo uno stipendio ridicolo e nonostante una laurea in ingegneria, vivevo senza prospettive. Ho scelto di dire di no alla raccomandazione di un grosso politico italiano in occasione di una premiazione. Dopo 2 anni, oggi lavoro in Svizzera e con le mie sole forze percepisco uno stipendio del quale posso andare fiero. Ce n'è un'altra di questi messaggi che parlano di proprio dire di no alle raccomandazioni. Un attimo, lo trovo. Ho detto no al lavoro dell'azienda. No, questo è un altro. Ho detto no al lavoro sterile nell'azienda di famiglia. Ora sono 10 anni che lotto per il mio sogno, che è avere un locale. E finalmente ci sto riuscendo. Mai piegare la testa per paura di fallire. Silvio! Ho detto no, questa l'abbiamo già letta. Niente, non lo trovo, però eccolo qua. Ho detto no ad una raccomandazione per un'assunzione in banca che mi ha permesso di proseguire gli studi ed essere la psicoterapeuta che sono. 349-238-6666. Quando abbiamo letto la storia di Pietro abbiamo immaginato una storia analoga o una storia che fosse che la inglobasse anche riguardo al dire di no. Ci è venuta in mente nella nostra scarsa fantasia la storia di Bartleby scritta da Herman Melville, che secondo me tutti hanno letto per il semplice fatto che rispetto a Moby Dick è tipo un ventesimo. Allora dice: hai letto di Melville? Sì, di Melville, aspetta, ho letto, certo, Bartleby lo scrivano, certo. Che tutti sapete essere quello scribacchino che un bel giorno alla richiesta del suo capo di scrivere qualcosa lui dice preferirei di no e si ostina semplicemente a dire no, preferirei di no. Quello che però voglio leggervi non è tanto un pezzo da Bartleby lo scrivano, ma è un'introduzione al romanzo che ha scritto Gianni Celati e che spiega la figura di questo omino che dice semplicemente di no. Bartleby è lo scrivano che rinuncia a scrivere e resta immobile a guardare un muro. imperturbabile e laconico, sordo ad ogni ragionevole persuasione, inespugnabilmente mite. È una figura senza alcuna possibile salvezza. La storia di Bartleby ci viene raccontata da un avvocato di Wall Street, nell'epoca in cui questa strada, all'estremità di Manhattan, sta diventando il centro della grande finanza americana, che si espande in tutto il mondo. E su questo scenario, la vicenda dello scrivano è così irrilevante che a malapena si riesce a riassumerla. Salvo forse con quell'immagine dell'erba spuntata tra le pietre della prigione di Manhattan, che alla fine l'avvocato osserva come se fosse l'emblema del tipo di vita che ci ha raccontato. Nessuna tragedia vera e propria, nessun fatto avventuroso, solo il fruscio del divenire entro gli stretti limiti del suo luogo d'apparizione. Del resto, tutto in questo racconto parla di limiti, di spazi esigui, di attimi minimi, di piccolezze. Tutto sembra nel segno di un abbandono delle aspirazioni di grandezza, nel segno di un lutto per tutte le titaniche e deliranti ansie di espansione. Lo scrivano Bartleby, pallido, mite, laconico, è l'incarnazione di questo lutto. È il depositario dell'ombra perenne, è il propugnatore di una immobilità simile a quella di certi santi del deserto. È la figura della divinità povera, del poco, del nulla, su cui si può sempre sopravvivere. Ma soprattutto è la figura di un'estrema scarsità di parole, personaggio strambo e incantato, che riduce tutto il suo parlare a un'unica frase usata come un ritornello. Avrei preferenza di no. Tiziano ci tiene a fare sapere che questo disco ancora non è uscito e noi lo mettiamo anzitempo. E tra l'altro, Tiziano, perdonami, oltre a questo, oggi abbiamo nato un brano, il brano prima dei Mumford & Son, che sono il gruppo che sta vendendo di più in assoluto in America e negli Stati Uniti, ma di fatto nelle radio italiane più o meno, perdonatemi, in America e in Inghilterra e in Gran Bretagna, ma di fatto nelle radio italiane non si sente. Radio 24, l'unica radio parlata che va a sentire la musica che altrove non sentite. 349-238-6666, qualcuno ci chiede perché siamo a Roma. Siamo a Roma, io e Bonini, perché questa sera alle 21 raccontiamo delle storie che non hanno a che fare con quelle che sentite tutti i giorni. Raccontiamo le storie di due grandissimi che hanno messo insieme delle narrazioni orali e non, erano i fratelli Grimm, hanno scritto delle fiabe. Questa sera noi leggiamo, cioè io leggo, Tiziano Bonini mi dà una mano, leggiamo una riscrittura di quelle fiabe che abbiamo fatto in un modo particolare, lo facciamo al Goethe Institute di Roma alle 21 se siete da queste parti. Qualcuno mi scrive, non si firma, non so, forse non ha il coraggio, mia moglie mi dice sempre di no, è preoccupante? Questo vedi dalla tra te e te. Non ho saputo dire di no a mio padre e ora faccio un lavoro che non mi piace, per cui non ho studiato e con poche prospettive, sebbene a tempo indeterminato. E Amedeo invece sul profilo Facebook del programma dice: giugno 2012, Chamois. Con tre amici abbiamo in programma una scalata. Goulot di ghiaccio sul Toucoul. Tiziano, tu conosci queste zone? No, Valerio, manco te lo chiedo che sei dei Frascati. La sera prima però nevica e ci sembra che non ci siano le condizioni. Diciamo no a quella via. E io ero partito la notte prima da Roma solo per farla quella via. Abbiamo detto no e adesso siamo ancora qui. Perché mentre la facevamo, una via più semplice, sull'altra faccia della montagna, è venuta giù una valanga di quelle grandi e non ce l'avremmo fatta. Amedeo. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata. Vi lascio per una volta, non con Chiedo Asilo, ma con uno speciale in onda in studio Gigi Don. Lo speciale riguarda il premio Nobel per la pace 2012 che è stato da poco assegnato all'Unione Europea per una motivazione che, guardate, ve la dico anche così lanciamo bene Gigi. La motivazione è: all'Unione Europea da 60 anni isola felice di democrazia. Io ringrazio ancora Valerio Rocchetti, Tiziano Bonini, Stefano D'Andrea e Margherita Ina, che era a Milano ma ci tiene sempre d'occhio. La storia di oggi era la storia di Pietro e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Marco, vivo a Pordenone, la storia di lunedì è la mia e parla di Haiti. Questa è la mia storia e io sono qui.